Cos'è che mi piace dei festival? Che tu pensi, i festival ci sono solo d'estate, no? Ti immagini queste cose grandi, invece no, c'è anche la versione invernale dei festival, che è una cosa un po' più compatta, che di solito si tiene nel giro di una giornata, ed è quello che accadrà questo sabato a Bologna. Sì, si tiene al chiuso perché poi diciamo che inizia a fare un po' freschino, no? Ma ora non fare il vecchio, eh? Allora ci si scalda tutti insieme con la musica, gli amici, magari anche un po' pogando. Ma perché no? E divertendosi. Ci serve un festival dove ci sia della musica da pogare, quindi qualcosa magari tipo un po' punk, un po' rock. Sì, ma non solo. Io vorrei una bella giornata che coniughi la mia voglia di pogare con la bella musica e anche magari dei generi che non conosco troppo bene. Che ne so, io qualcosa di rap, del rock cantautorale. Cosa possiamo fare? Ce l'ho, Mauro. Ho trovato. Dobbiamo andare via, dobbiamo partire. Dove lasciare, andiamo? Lasciare questa, cioè non proprio questa città. Cioè, ti spiego. Partirò per Bologna. Quindi è valido anche per quelli che sono già a Bologna comunque. Sì, cioè prendi un bus, poi se vuoi esci e ritorni a Bologna. Comunque partirò per Bologna è il nome del festival che si terrà appunto questo weekend, sabato, a Bologna. Tutta questa gag iniziale per dirvi che sabato 19 ottobre all'Estragon di Bologna ci sarà la terza edizione di Partirò per Bologna. Esatto, per il terzo anno consecutivo si terrà un festival che comunque nelle precedenti edizioni è stato sold out, quindi riempiendo anche l'Estragon, insomma non è proprio roba da tutti i giorni. Non è roba da tutti i giorni, insomma. E poi è anche carina questa cosa del nome, che è una canzone celebrissima, celeberrima della banda Bassotti. Esatto, infatti la banda Bassotti sarà la band che chiuderà la serata, tra l'altro è stata presente a tutte le edizioni del festival. E più che un festival, ce lo dirà poi anche Filippo Andreani, che abbiamo intervistato, è quasi una riunione di famiglia. Vogliamo dire un po' chi ci sarà quest'anno sul palco? Ma sì, va là, già che siamo qua diamo due informazioni a caso. Così. Insomma, sul palco dell'Estragon per Partirò per Bologna volume 3 ci saranno appunto la banda Bassotti a chiudere diciamo la serata, poi i Reincidentes, l'unico gruppo spagnolo, straniero quindi, In Abat, The Blue Beaters, Assalti Frontali, poi anche Tonino Carotone, Muro del Canto, Ramiccia, Arpioni e Brat. Inoltre ci sarà anche appunto lo stesso Filippo Andreani, che nelle edizioni precedenti ha suonato, quest'anno non sarà sul palco a musicare la serata Partirò per Bologna, ma presenterà un libro. Questo libro, che appunto è curato da lui, si chiama Auxigaro, musica, vita e miracoli di un pelle rossa con la chitarra. Esatto, noi adesso direi che vi possiamo lasciare a un brano e iniziamo con i Reincidentes, così vi ascoltate anche un po' di punk spagnolo. Dopodiché all'intervista che abbiamo fatto a Filippo Andreani, che è uno degli ideatori e organizzatori di questa festa, perché non è solo un festival musicale, ma è proprio una festa, una riunione di famiglia per celebrare un certo tipo di musica e anche per celebrare Sigaro, che era uno dei fondatori e chitarrista della banda Bassotti. Quindi è un po' dedicata a lui anche questa giornata. Quindi prima di lasciarvi all'intervista vi ricordiamo che sabato 19 ottobre a partire dalle 4:30 del pomeriggio ci saranno vari concerti, la possibilità di trovare il libro in anteprima di Filippo Andreani e tante bellissime cose all'Estragon di Bologna. Allora io vado a fare lo zaino perché partirò per Bologna, Mauro. Ciao! Ciao! Para trabajar porque mi curro me lo exige. Tabaquismo. terrorismo, propaganda, religiones, violaciones, suma y sigue. Comprar y comprar diciendo que responde una necesidad. Drogar a los viejos todos los días en la seguridad social. Sin vicio no puedo estar. Vicio, vicio. Sin vicio no quiero nada. En tu casa. Sin vicio no puedo estar. Vicio, vicio. Sin vicio no quiero nada. La juventud busca su perdición con tanto vicio. Tronear en las plazas es un acto de vandalismo, pero también no es protestar o abrir bares distintos. Fumar hierbas ilegal también antisocial, pero nos gusta más. Sexo, droga y rock and roll en libertad, igualdad y fraternidad. Sin vicio no quiero estar. Vicio, vicio. Sin vicio no quiero nada. En tu casa. Sin vicio no puedo estar. Vicio, vicio. Sin vicio no quiero nada. En tu casa. En tu cama. En tu casa. En tu cama. Vicio. Allora, eccoci qua, siamo al telefono con Filippo Andreani che ci parlerà un po' di questo evento che si tiene il 19 ottobre all'Estragon di Bologna, che si chiama Partirò per Bologna. Intanto ciao Filippo. Ciao Mauro, ciao, buongiorno a tutti. E grazie mille della disponibilità. Allora, io partirei da una domanda piuttosto semplice. Perché l'evento si chiama Partirò per Bologna se si tiene già a Bologna? Effettivamente, perché non tutti quelli che ci andranno partiranno da Bologna, quindi partiranno da diverse città d'Italia. Partirò per Bologna è il titolo di una bellissima canzone della banda Bassotti che aveva scritto Sigaro insieme a Luca dei Claxon, ed era, così parlavamo, utilizzata come anche come inno dell'evento. Ecco, una volta, molti anni fa, mi dicevano gli amici di Roma, molti dei quali suonano anche questa edizione, che da Roma a Bologna la vedono un pochettino come il luogo dove succedevano le cose belle, no? Ti parlo dei tempi in cui c'erano i Naba che andavano per la grana alla grande, gli Stab, insomma tanti altri, e quindi succedeva molto spesso che ragazzi di Roma, che oggi sono cinquantenni, sessantenni, che allora erano ragazzi, partissero con i biglietti contraffatti della stazione di Termini per arrivare da voi. E niente, quindi l'abbiamo intitolato Partirò per Bologna anche in ricordo di quei tempi e come così piccolo tributo alla vostra città e a quella bellissima canzone di cui ti parlavo. Tra l'altro la banda Bassotti, che sarà una delle tante band che si esibiranno in questa edizione. Vuoi dirci un po' chi, sì, ci sarà, esatto, chi avete contattato? La banda Bassotti sarà la band che chiuderà come tutti gli anni il festival. La banda Bassotti è sempre stata presente in tutte e tre le edizioni e della ragione è che questo, più che un concerto, è nella nostra testa una specie di raduno di famiglia. Quindi tutti quelli che ritengono per varie ragioni di appartenere ad una scena musicale, ma non solo, italiana, si rivedono lì, passano una bella serata in compagnia. Noi cerchiamo di proporre anche della buona musica. Quest'anno sul palco c'è anche qualche bolognese come in Abbas, ci sono romani come la banda Bassotti, Muro del Canto, gli Assalti Frontali, i Ramiccia, ci sono Carpioni, abbastanza romani d'adozione anche loro, c'è Tonino Carotone, cittadino del mondo. E apre il concerto, questo mi piace dirlo perché se lo merita, apre il concerto invece Brat, che ha appena fatto un disco, non lo conosce praticamente nessuno, e la musica che propone non c'entra niente con quella del resto della serata, ma siccome è un ragazzo meraviglioso e tra l'altro è un artista che mi piace, ho deciso di farlo, così di far aprire a lui il festival, anche se non ha un nome e anche se il concerto è più grande che ha fatto, probabilmente era davanti a 100 persone o 50, è un segno proprio di quello che ti dicevo prima, cioè non è solo un concerto, ma

la vita senza niente in cambio. Tutti alla riva dell'acqua sorgiva che esce in superficie e fa Roma più viva. L'underground ci dà buoni amici, la natura si ribella, noi ci fa felici. C'è il cormorano con noi, il Martin pescatore sta dietro alla stazione Termini e Porta Maggiore. Piano piano è nato un nuovo ecosistema, c'è un bambino che nell'acqua va in cano e che rema. In mezzo ai mostri di cemento stacco amori fletter cielo, è la natura che combatte sto quartiere meno nero. In mezzo ai mostri di cemento il lago è un sogno che s'avvera, è la natura che resiste stanotte Roma è meno nera. Bella Torpigna Tara, bella borgata dove il razzista ha la sua bara. Amo anche Predestino Labicano, se sei con noi adesso alza la tua mano. Ora il lago ha vinto, sei stabilizzato, è il lago di tutti, non è un lago privato. Ha invaso il cemento armato e ci ha chiesto aiuto, e noi l'abbiamo immaginato, amato e conosciuto. In mezzo ai mostri di cemento stacco amori fletter cielo, è la natura che combatte sto quartiere meno nero. In mezzo ai mostri di cemento il lago è un sogno che s'avvera, è la natura che resiste stanotte Roma è meno nera. Altro in questo periodo storico, periodo a cui tu sei, insomma, un argomento a cui tu sei particolarmente legato, quella dell'esercito turco che sta invadendo il Kurdistan. E le band hanno una posizione, quelle che suoneranno sabato, una posizione abbastanza netta su queste cose. Secondo te la musica cosa può fare in questo senso? Ma intanto devo dire che adesso non so quale sia la posizione esatta delle band su questo discorso. Sono certo che non ci sia nessuno che giustifichi la condotta di Erdogan, ma poi sai, all'interno della questione curda e siriana esistono diverse sfaccettature, non mi sembra che questo sia il momento di affrontarlo, perché mi addentrerei in un ginepraio dal quale preferisco sempre scappare. Però la musica, per come viene interpretata dalle band che si esibiranno e dalle band che noi siamo soliti frequentare e far suonare, è sicuramente un veicolo importante. Adesso però è banale dirlo così. Se rendo di più l'idea, se dico che io di alcune problematiche, di alcuni conflitti, sono venuto a conoscenza proprio attraverso le canzoni di queste e di altre band. Per cui, insomma, penso che, dai, la musica è un linguaggio universale, no? Da Blowing in the Wind, che è una canzone pacifista, da Imagine, a chi invece ha un atteggiamento più, se vuoi, combattente, forse qualcosina dentro il cuore, dentro le coscienze della gente può smuovere. Però, ripeto, non sto dicendo delle banalità estreme. Ti faccio una domanda sul tuo secondo album, che ho spulciato un pochino, che si chiama Il Secondo Tempo, e unisce un po' punk, il calcio e tanti argomenti. Cosa lega il mondo del calcio e del punk, e perché hai deciso proprio di parlarne? Ma cosa leghi i due mondi? Non lo so, forse è quello che ci fuori dal campo, quindi soprattutto le tifoserie, molte si rifanno delle sottoculture presso le quali mi sono sempre trovato un pochettino a casa. Dopodiché penso che punk e calcio forse non abbiano molte altre cose in comune. Per quanto mi riguarda però sono due mie grandi passioni, quindi ho deciso di utilizzare una per parlare dell'altra, anche se poi in realtà non parlo mai del gesto sportivo, ma più che altro di persone che a mio avviso hanno fatto diventare il calcio qualcosa che è molto di più di uno sport, come Gigi Mironi, come George Best, eccetera, eccetera. Allora, chiudo con l'ultima domanda. Intanto sabato, diciamo, ci saranno varie band di vari tipi che vengono da varie zone d'Italia, e non solo, perché c'è anche i Reincidentes, che invece sono spagnoli. Ah, perdonami, sì, me le sono dimenticate nell'elenco. Sì, esatto. In Spagna sono un gruppone, qua da noi magari meno, ma sono convinto che sarà bello ascoltarli lì. Allora, ti chiederei al volo una sorta di invito agli ascoltatori per partecipare il 19, e altra domanda con cui chiudiamo poi: con che pezzo dovremmo chiudere questa intervista secondo te? Secondo me chiediamolo con Partirò per Bologna, se ce l'hai. Mi sembra un'ottima idea. Ok. E per quanto riguarda l'invito, invito tutti a partecipare alla annuale riunione di famiglia che si terrà il 19 ottobre a Bologna all'Estragon. Il festival si intitola Partirò per Bologna, è la sua terza edizione, mi auguro che ce ne saranno altre 10.000, perché abbiamo scoperto che quel posto ha qualcosa di magico, l'atmosfera che si respira sia nel pubblico che nel backstage è unica, non so per quale tipo di magia, ma a volte la magia esiste, quindi passiamo la nostra serata di Natale il 19 ottobre a Bologna. Oh,